la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Oscar Giannino vi augura un buon dopo Pasqua per chi ha ricominciato a lavorare, come tutti noi, naturalmente, un buon ritorno al lavoro, e per chi invece è più fortunato, ha programmato meglio e ci ascolta comunque, riposatevi, un buon riposo. Vado subito al tema del giorno per vedere, prima di presentarvi l'ospite, chi volesse darci le vostre opinioni all'800 24 00 24. Il tema del giorno è un'appendice, secondo me molto importante, ma magari voi pensate diversamente, sentiremo il nostro ospite cosa dice, del decreto assunto dal governo prima, poco prima appunto delle feste pasquali, venerdì scorso, il decreto con il quale, tra le altre cose, soprattutto il governo Renzi ha tenuto fede, ci tiene molto il Premier a questa sottolineatura, smentendo i gufi, per così dire, come dice lui, alla promessa del bonus IRPEF, le detrazioni 80 euro mese, quest'anno un po' di meno, l'anno prossimo diventano davvero 80 euro mese, per i lavoratori a reddito dipendente fino a 25.000 euro lordi, poi a seconda di come è graduata la cosa si arriva quasi con qualche cosa anche per quelli fino a 28.000, ma il punto di fondo è che questa misura non comprende negli incapienti, coloro che stanno sotto gli 8.000 euro, poco più di 8.000 euro di reddito annuo, e che quindi, non pagando l'IRPEF, non possono beneficiare delle detrazioni, mentre il Presidente del Consiglio aveva promesso la misura anche per gli incapienti, ma il Ministro del Tesoro ha spiegato che noi non avevamo le coperture per farlo, se ne parlerà nella legge di stabilità per l'anno prossimo, né poi i lavoratori autonomi per le stesse classi di reddito dei lavoratori dipendenti interessati dal bonus. E su queste due mancanze, e la mancanza del lavoro autonomo nel bonus, che serve a dare più reddito disponibile ai più colpiti dalla crisi, quindi redditi medi e bassi, per sostenere poi la domanda ai consumi interni, la domanda che vi faccio è giusto? E a che tipo di giustizia risponde considerare solo i lavoratori dipendenti come beneficiari del bonus e i lavoratori autonomi delle stesse classi di reddito invece no? Perché deve valere il pregiudizio che sono, come spesso si ripete, evasori? Perché noi partiamo dal presupposto che le loro dichiarazioni dei redditi siano mendaci? Perché non hanno perso il reddito che hanno perso meno dei lavoratori dipendenti, o magari ne hanno perso di più, visto che non hanno le tutele sacrosante dei lavoratori dipendenti? Ecco, questa è la domanda che vi rivolgo, curioso di capire come la pensiate. Nel frattempo, ieri in un'intervista a Repubblica, il Presidente del Consiglio ha poi detto: lo faremo anche per gli autonomi, i pensionati, gli incapienti, lo ha detto col suo tono abituale di questo entusiasmo quasi travolgente. Oramai, a qualche mese dall'inizio del governo, direi che possiamo abituarci all'idea che l'entusiasmo travolgente del Premier viene poi temperato dal ministro Padoan e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dice: sì, però qui i tagli di spesa per coprire tutto non ce ne sono. Come non è vero che non ci siano aumenti di imposte nella manovra composta nello stesso decreto, visto che non c'è solo l'aumento del prelievo per le quote rivalutate di Banca d'Italia alle banche, cose sulle quali, io devo dire la verità, essendo molto critico di quel decreto, non sono poi neanche troppo critico, anche se è un altro bel esempio di tassa retroattiva. Ma per esempio la rivalutazione dei beni alle imprese, che era stata proposta spalmandola poi per quello che riguarda le cose da pagare fiscalmente in 3 anni al governo, viene tutta concentrata e anticipata in 1 anno. E poi c'è l'aumento dell'imposizione dal 20 al 26% sul piccolo risparmiatore, un aumento regressivo, l'abbiamo detto molte volte, ma torneremo su questo punto nei prossimi giorni. Quindi non è vero che poi non ci siano aumenti di entrate e ci siano solo tagli di spese. Anzi, come dice il ministro Padoan, i tagli di spese restano inadeguati a rendere anche il bonus per i lavoratori dipendenti strutturale. Strutturale significa che si può contare fin da quest'anno che ci sarà anche l'anno prossimo, invece no, perché per la ragione delle coperture, che se non sono strutturali, l'Unione Europea obietta, è solo per quest'anno, anche se c'è la promessa formale che l'anno prossimo il Presidente del Consiglio dice che la legge di stabilità diventeranno strutturali e si amplieranno anche agli autonomi, che per il momento non ci sono, e agli incapienti, che per il momento non ci sono. Ecco. L'ospite è uno di coloro, dei tanti che ci scrivono, e vi invito a scriverci per segnalare problemi di ogni ordine e grado, per candidarvi a fare gli ospiti nelle nostre trasmissioni, per dare voce a chi la voce abitualmente non ce l'ha nell'informazione. Quindi fatelo, mandateci lettere alla versione di Oscar Radio 24. E l'ospite di oggi è un autonomo, appunto, è un giornalista freelance che si chiama Massimo Del Papa. Grazie di essere con noi oggi pomeriggio, Massimo. Grazie a lei, Oscar, buongiorno. Allora, lei ci ha scritto una lettera che era uno sfogo, per così dire, però era uno sfogo di quelli che nel mondo degli autonomi a me capita spessissimo in questi anni di ascoltare, ed ecco perché ho pensato di far parlare a lei in questa trasmissione, in cui la domanda diventa: perché però gli autonomi non hanno il bonus a parità di reddito dei lavoratori dipendenti? La domanda diventa: perché lo Stato deve distinguere la fonte da cui si percepisce il reddito per adottare provvedimenti diversamente commisurati, quando il Presidente del Consiglio dice abbiamo iniziato la restituzione del troppo che lo Stato ha chiesto in questi anni, e lo Stato però fa differenza della fonte attraverso la quale si realizza un uguale reddito da lavoro autonomo e da lavoro dipendente? Allora, sentiamo un pochino nella lettera che ci aveva scritto Massimo. Ma immagino perché noi siamo gli ultimi ammortizzatori sociali rimasti, intendendo con ammortizzatori i materassi. Noi siamo il materasso su cui lo Stato da sempre scarica i costi delle garanzie altrui, giuste o a volte esagerate che siano. Nessuno si occupa di noi, come si è visto anche dalle misure di questi ultimi giorni, ora. Lei quanto, però, che reddito ha realizzato nel 2013? Le dico subito, io al di là della no tax area, che vabbè, lascia il tempo che trova, io ho dichiarato 5.000 euro di fattura, ho fatturato 5.000 euro e ne devo versare all'incirca 1.200 allo Stato. Ora si capisce perfettamente che questo è un non senso, ci si rimette a lungo andare la salute, perché poi non è cosa di un anno. Io faccio questo mestiere da 25 anni e da 25 anni sono, per così dire, autonomo. Sono un freelance, ma non conta qui il mio ruolo professionale. Conta come io vengo sconsiderato dallo Stato. Anche io sono una partita IVA. Anche io sono l'Italia. Parafrasando Langston Hughes, anche io sono l'Italia. Sono quel frammento d'Italia che gli altri considerano malfattore, sempre a prescindere. Noi siamo gli alibi che hanno permesso in tutto il dopoguerra questa giustissima progressione, cioè passare dalle aspettative alle rivendicazioni, ai diritti acquisiti, fino anche alle pretese intoccabili, per molti, ma come si vede non per noi. E quando qualcuno dice di battersi contro la precarizzazione, non dice la verità, la precarizzazione va benissimo, basta continuare a colpire quelli come noi che non sono mai stati neppure precari. Quindi lei, pagato quello che deve dei 5.000 euro fatturati nel 2013, sì, ci è pagato da 1.200, ne restano 3.800, cioè ne restano più o meno 320 euro al mese. Cioè, però attenzione, poi le spese sono tutte mie. No, no, chiaro, lei con 10 euro al giorno, secondo lo Stato, deve risolvere tutto nella sua vita. Tutto questo è pleonastico dirlo, ma logora, questo logorio consuma. Qualche giorno fa io ho sentito una collega di partita IVA, che è Daniela Fregosi, no? Sì. La consulente che è uscita allo scoperto denunciando un cancro, che l'ha resa malata di serie B. Sono tante le forme di logorio, perché comunque si lavora, anche da partita IVA si corre, si macina un calendario dopo l'altro, si mette insieme le briciole. E io non ho ancora trovato chi abbia affrontato questi aspetti anche psicologici, di chi è condannato ad un'immaturità cristallizzata, perché chi vive così non può programmare niente, non ci si possono assumere responsabilità. Poi un giorno ti guardi nello specchio e scopri che hai 50 anni. Ora, io ho chiesto di intervenire non per chiedere più diritti. Io non sono abituato a chiedere diritti e non mi importa neppure di chiedere gli 80 euro di micro bonus. Mi basterebbe mi fosse tolto qualcosa in termini di doveri. Perché oltre questo c'è la morte. Ora, un morto di lavoro o senza lavoro è una tragedia, sempre, ed è giusto rimarcarla e considerarla come tragedia. Solo che questo per noi non vale. Se mi ammazzo io, Oscar, non succede niente. Ma chi è che ha mai letto un titolo tipo Partita IVA si uccide? È da morire da ridere, no? Purtroppo non da ridere. Allora, alcuni dei tanti messaggi che stanno arrivando a raffica. Allora, per esempio, sono partita IVA da 25 anni, scrive un ascoltatore, non ho mai evaso una sola lira, ma appena riesco a sostenere la mia famiglia. Renzi ha pensato a me? No, e io non lo voterò mai, preferisco votare Movimento 5 Stelle, ci dice il nostro ascoltatore W. Oppure opinioni diverse invece, perché non estendere il bonus anche ai lavoratori autonomi? Perché ne beneficerebbero, ad esempio, ci scrive Renato, i gioiellieri che dichiarano mediamente 22.000 euro. Oppure ancora c'è chi si dice d'accordo con me per l'aumento della tassazione del capitale dal 20 al 26%, una tassazione regressiva che colpisce i piccoli risparmiatori, non colpirà gli intermediari, quindi le banche, le imprese, non colpisce, questi sono i cosiddetti lordisti in gergo tecnico, non colpisce i soci qualificati delle imprese, sia quotate che non quotate, colpisce in maniera patrimoniale, cioè regressiva a prescindere dal reddito, i piccoli risparmiatori. Ricordo che sono compresi i conti bancari, sia di deposito che di risparmio, sono presenti anche nell'aumento della tassazione i conti e i libretti postali, non i prodotti postali invece, e non i titoli pubblici, quindi si aggrava il gap a favore dello Stato, su cui resta la tassazione del 12%. Io non sono affatto contrario personalmente ad aumentare l'imposizione sui redditi da capitale, anzi la mia opinione è che andrebbe unificata, anche qui evitiamo le distorsioni, unifichiamola ai redditi di qualunque altra fonte e consentiamola, come in tanti altri paesi avanzati, di portare anche i redditi da capitale nella propria dichiarazione dei redditi, sottoponendoli quindi ad aliquota progressiva. La cosa che mi sembra incredibile è che un governo di sinistra, che dovrebbe stare attento ancor più agli aspetti di redistribuzione, equità e proporzionalità della capacità contributiva fissati all'articolo 53 della Costituzione, adotti questa tassazione come una tassazione contro le rendite, contro il capitale, quando è una tassazione regressiva contro i piccoli risparmiatori, a prescindere dalle classi di reddito a cui appartengano. Quindi è un'imposta patrimoniale aggiuntiva che non tiene conto della progressività del reddito delle persone fisiche, eppure avviene puntualmente. Ci sono molti messaggi su questo, quindi ne riparleremo. Oppure c'è un autonomo che ci scrive, Ilaria, che scrive: un provvedimento per lavoratori dipendenti non può essere uguale per altri tipi di lavoratori. Ho capito, però c'è un principio equitativo che in questo caso viene ignorato, e il motivo è perché, anche perché ho un grande dibattito sui media sulla faccenda degli autonomi esclusi, non l'ho visto e mi limito a chiedere a voi ascoltatori. Torniamo tra 60 secondi ora perché abbiamo l'informazione sulle strade. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a 16:48 minuti 42 secondi. C'è anche chi dissente molto radicalmente tra i nostri ascoltatori. C'è Francesco da Como, per esempio, che me ne stacca tante, dicendo che è molto deluso da me in tutto e per tutto e che io non ho neanche un po' di vergogna dicendo, parlando di poveri autonomi, perché evidentemente mi manca il pudore. La mia opinione è che evidentemente riconosco tutti io, quelli che hanno perso gran parte dei clienti, oppure moltissimi che sono monocommittenti, e tantissimi che stentano davvero a pagare i contributi obbligatori e quello che dice lo studio di settore per essere congruo. Io ne conosco a bizzeffe. Secondo me siete in molti a cadere nella trappola della pubblicazione due volte all'anno delle medie, delle dichiarazioni degli autonomi che dimenticano, naturalmente in maniera voluta secondo me, dimenticano che quelle medie di dichiarazione dei redditi personali non comprendono lo splitting che nell'impresa familiare è consentito nel reddito dell'impresa e quanto poi si paga anche sul reddito dell'impresa familiare. Ergo, naturalmente, come è giusto, l'ascoltatore che ci ha scritto è convinto che 22.000 euro media di reddito dei gioiellieri sia tutto ciò che il gioielliere paga, perché lo Stato, nella sua graduatoria annuale, non gli dice quanto ha pagato anche nello splitting gli altri componenti di famiglia sulla quota di reddito familiare imputata alle persone fisiche e quanto poi naturalmente fiscalmente ha pagato a seconda del diverso tipo di organizzativo societario anche l'impresa commerciale o di qualunque altro tipo familiare di cui stiamo parlando, perché è di lì che nasce la media così bassa, mentre naturalmente tutti sono convinti che quei 22.000 euro sia tutto ciò che è stato dovuto dal gioielliere per il suo negozio. Però detto tutto questo, continuiamo con il nostro ospite Massimo Del Papa. Alcuni dicono non puoi parlare a nome di tutti gli autonomi con 5.000 euro di reddito l'anno. Anzi, Milena ti chiede, ma come fai a campare con così pochi soldi? Non è possibile. Che dici? Io dico che quando io racconto, a parte che io non sono un gioielliere, sono una partita IVA, non c'entro niente con i gioiellieri. Certo. Io faccio il giornalista da 25 anni, faccio un mestiere che mi porta a metterci la faccia. E ho lettori da 25 anni ai quali rispondo. E quando però io invito chiunque a venire a vedere come campo, nessuno raccoglie questo invito. Se io racconto quello che sto raccontando adesso qui con Oscar, le reazioni sono due, cioè le due facce della stessa medaglia di stagno. O dici palle evasore, come questa gentile signora evidentemente dubita, oppure perché non evadi, sei un idiota. Io sto tutto in questa forbice, tra il sospetto e il disprezzo, ma io non sono nessuna di queste due cose. Io semplicemente fino a 50 anni sono stato una persona per bene, un galantuomo, il poco che avevo l'ho finito cercando di sopravvivere e non mi vergogno a dire che oggi se io potessi vendermi, se io potessi rubare, mentire, se io potessi evadere lo farei, io lo farei, mi ci ha spinto lo Stato. È stato questo Stato a trasformarmi così. Bisognerebbe anche ricordare che noi siamo tracciabili, siamo molto facilmente tracciabili, non so i gioiellieri, io sì. E bisogna anche avere la testa, bisogna avere la mentalità per inventarsi sempre delle gabole, per sfuggire, per essere anguille. Io non sono né un gioielliere né un'anguilla, sono un freelance che in 25 anni ha fatto tutto di questo mestiere, e non ha mai evaso niente. Lo però so. Sono anche stufo di dover ripartire. Esatto, sempre da quelle sulle solite obiezioni. Sentiamo un po' gli ascoltatori a che pensieri sono indotti invece. Andrea da Cesena, prego Andrea. Allora, buonasera, buonasera a tutti. Dunque, francamente volevo dire alcune cose, ma ascoltando il suo ospite si può dire quasi che ho cambiato idea. Perché? Perché io sono un lavoratore dipendente, suo malgrado, e purtroppo siamo tutti grosso modo alla fame, e perché siamo tutti vittime del sistema, non inteso così come questa entità tratta, ma semplicemente perché il grande mangia il piccolo e questi piccoli freelance o comunque piccoli artigiani, piccoli commercianti sono anche loro dei pinocchio in bocca alla balena. Ah, questo fa piacere che lo riconosca, ma perché secondo me lo dicono i dati, però se tutti dicono i nostri dati sono autonomi, che sono truccati, è ovvio che i dati non possono che dare ragione a quel punto ai dipendenti, ai pensionati da reddito dipendente. Però... Io ho tanti amici che fanno piccoli artigiani, piccoli commercianti, compagnia bella, ho a che fare con tanti perché c'è chi mi viene ad aggiustare in casa, sì. Insomma. Però francamente da lavoratore dipendente la prima idea che mi viene in mente è quella di dire che ai lavoratori autonomi non va una lira perché questi già ne rubano a bizzeffe. E questo immagino che siano in tanti tra i lavoratori dipendenti a pensarlo, perché c'è quest'idea che il lavoratore autonomo può scaricare qualunque cosa. E voi siete davvero convinti che sia così, senza sapere che oggi la contestazione fiscale di costi indeducibili è diventato l'ABC per noi che siamo tracciati del fisco per ciascuno per chiederci più soldi, cioè i furbi non lo si fa su queste cose, I furbi sono quelli che non esistono per il fisco, ma se voi ci provate a fare un elenco di spese come deducibili, cioè costi realizzati per il valore aggiunto nella vostra opera di autonomo, vi viene addosso automaticamente il controllo. Sarà, se voi non ci credete, non so che cosa dirvi, però intanto è così. Quindi questa storia per cui tutti possono scaricare tutto, gli autonomi, a me non risulta, non solo per le regole vigenti, che tutti quanti o molti di voi pensano aggirate in massa, ma perché arrivano i controlli di massa per noi che siamo conosciuti dal fisco. Vincenzo da Napoli, sentiamo come la pensa Vincenzo. Ma guarda Oscar, in realtà hai un attimino anticipato, non vorrei far aprire nessuna guerra tra i poveri. No, ma qui non è una guerra, tutte le ragioni sono valide, quindi io lo so che questa opinione è dominante. Figurati. Perdonami, si era partiti perché è stato scelto prima il lavoratore dipendente e poi l'autonomo, perché in maniera molto banale, io ad esempio che sono dipendente non ho la possibilità di comprare un'autovettura in leasing e scaricare il canone di noleggio, cosa che può fare un autonomo, soprattutto il giornalista, perché è strumentale alla sua attività, quindi non è vero che non possono scaricare nulla, no, possono certo scaricare nulla. Delle cose che invece i dipendenti non possono fare, uno. Due, mi risulta che purtroppo facendo anche un lavoro in cui sono a contatto con anche i lavoratori autonomi e sono purtroppo in banca, ti posso garantire che tante di quelle e di quei modelli unici non rispondono poi a quello che è il comportamento e quello della vita vissuta del cliente. Cioè ti dici che se fosse vero quello che c'è nella dichiarazione nell'unico non potrebbero permettersi il livello di vita che ha. Perfetto, certo. E non solo, anche la ricchezza accumulata probabilmente non potrebbe essere reale, quindi io non voglio, ripeto, fare nessun tipo di guerra dei popoli, no, però no. Se proprio devo verificare a chi per prima posso dare un beneficio perché la coperta è corta, lo capisco. Forse potrebbe essere anche corretto, visto che quello non riesce a scaricare nulla, certo. Perché gli altri quel pochino in più lo riescono a fare. Poi ultima cosa riguardo al giornalista a cui va una grande stima, ma mi pare che aveva detto che ad eccezione della no tax area, quindi superati la prima fascia dove non può cioè non paga tasse, l'altra parte sono 5.000 euro, quindi non guadagna 5.000 euro all'anno, ma sono almeno 12-13.000 euro. Aspetta, sentiamo da Massimo subito il chiarimento. Massimo? No, io questo è quello che ho guadagnato. Esattamente, punto sì. E fine della storia. Esattamente. Cioè, non si possono teorizzare cose che non si sanno. Io questo appunto. Ho guadagnato, questo ho dichiarato. Altro che leasing, altro che macchine. Io vedo una macchina di 15 anni che mi è stata tramandata da mio padre dopo che è morto. Perché il leasing comunque bisogna pagarlo. Allora, sentiamo, purtroppo è finito il tempo. Continueremo a parlare di quest'Italia divisa in due e dove tutti credono che i furbi siano altrove. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.